ora in onda qua e là tra una novità e l'altra. Ogni domenica su CRM a cura di Pino Simplicio. Buona domenica da Pino Simplicio, domenica 13 febbraio 2011, 11, 23 e 2 secondi, iniziamo con leggero ritardo e ringrazio già l'ospite, il sindaco di Geraci, quest'altra perla delle nostre Madonie, il sindaco Bartolo Vienna, grazie sindaco per essere con noi. Grazie e questo a voi. È uno degli argomenti della mattinata, faremo un consuntivo appunto sull'attività amministrativa del 2010, ci occuperemo ancora del palazzetto dello sport di Cefalù, infatti domenica 20 febbraio 2011, dopo un'attesa di 16 anni, il palazzetto verrà inaugurato. E ancora con il nostro sindaco di Cefalù, Giuseppe Guercio, parleremo della vicenda del porto di Cefalù e anche delle lunghe attese per quanto riguarda il San Raffaele Giglio. Andiamoci con ordine, grazie sindaco per essere venuto, un cordiale saluto a lei, grazie, e alla sua gentile signora che è qua con noi in studio, e un grazie a tutti coloro i quali ci seguono via internet, ricordiamo CRM Happy Radio.it, noi non solo ci facciamo ascoltare ma ci facciamo anche vedere, caro sindaco, come è appunto CRM. Dicevo, iniziamo subito con il sindaco Bartolo Vienna, è stato eletto nel 2008, salutiamo anche il vice sindaco, il dottor Luigi Iuppa, l'assessore anziano, il dottor Fabrizio Vincenzo Di Buono, e ancora salutiamo l'assessore. E questa volta è una donna, perché le quote rose vanno rispettate. Sono necessarie e vanno rispettate. Antonia Parrivecchio. Quindi abbiamo Bartolo Piscitello, il presidente del Consiglio Comunale Piero Scancarello e il vicepresidente del Consiglio Comunale Giuseppe Cusimano. Per non fare adesso così, per non essere, magari ci dimentichiamo qualcheduno, un saluto anche ai consiglieri comunali Antonio Corradino, Mariano Corradino, ancora Giacomo Gennaro Bertoni, dottor Francesco Giaconia, Antonio Roberto Giordano, Maria Minutella, poi abbiamo Antonio Giovanni Minutella, Giuseppe Neglia, forse ci sono tutti, Gaetano Scialabba. Ecco, caro sindaco, iniziamo proprio così con una battuta domenicale. Di questi consiglieri, chi non avrei dovuto salutare secondo lei? No, fatto benissimo, vanno tutti salutati perché sono tutta gente impegnata che cerca di dare un proprio contributo per questo nostro paese e per tutto il territorio, quindi vanno salutati tutti, maggioranza e opposizione. E allora salutiamoli tutti e iniziamo in questo modo. Il dicevo ad inizio che oggi parleremo del comune di Geraci attraverso l'attività amministrativa, un altro comune, un'altra perla delle nostre Madonie che noi guardiamo con tanta attenzione per la cultura, le tradizioni, la vivacità che si cerca di mettere in campo per far sì che queste nostre realtà vengano sempre attenzionate, intanto per da quel mondo turistico che non può sottovalutare assolutamente le nostre Madonie, ma soprattutto per questa ricchezza di contenuti. Anche in termini di patrimonio artistico, ecco sindaco, ci può fare una carrellata dei punti di riferimento più importanti di Geraci Sicolo? Sì, certo. Geraci, come tutti sapete, è una cittadina che ha un grande patrimonio storico, notevolissimo. Geraci è stata capitale di una contea sotto il dominio dei Ventimiglia. È stato uno Stato nello Stato, ha avuto la possibilità di amministrare giustizia, di battere addirittura moneta. È un paese, uno dei più antichi del nostro comprensorio, e ha quindi un patrimonio storico e urbanistico soprattutto di grande valore. perché tutto il centro storico si è costruito attorno alla roccaforte che era il castello, che era una roccaforte inespugnabile, che aveva proprio un grande valore militare e strategico militare. Ricordiamo che i Ventimiglia sono stati anche una famiglia importante nella storia non solo di Geraci ma di tutta la Sicilia, anche direi del regno delle due Sicilie, per cui la roccaforte di Geraci, proprio per la sua valore, per il suo grande valore strategico, era inespugnabile e quindi ha dato la possibilità a questa famiglia di poter svolgere questo ruolo in tutta sicurezza. Attorno al castello si è costruito il borgo, che mantiene ancora tutta la sua struttura urbanistica proprio di un borgo medievale. Ricordiamo che questo non è merito della mia amministrazione, ma vanno ricordate sicuramente le cose che gli altri fanno e quante queste sono di valore ancora di più. La passata amministrazione è riuscita a far sì che questo comune potesse iscriversi e annotarsi insieme a Cefalù nel club dei borghi più belli d'Italia. Noi abbiamo avuto il merito di confermare questa presenza, perché abbiamo avuto in questi ultimi anni, l'anno scorso abbiamo avuto, o addirittura quest'anno abbiamo avuto un controllo della commissione, e abbiamo mantenuto la nostra posizione dentro questo prestigioso club. Quindi sicuramente Geraci ha un valore storico, ma anche e soprattutto urbanistico, proprio perché mantiene intatto questo suo impianto fatto di viuzze strette, piccole, riparate, dove i rapporti sociali e umani si sviluppano, si sono sviluppati e si continuano a sviluppare in una forte armonia e una forte solidarietà sociale, che è un punto di forza importante per una comunità piccola come la nostra. Assieme a questo grande patrimonio urbanistico, chiaramente la famiglia dei Ventimiglia, oltre a svolgere queste funzioni militari e economiche, ha anche riuscita a fare delle cose importanti sotto il punto di vista artistico. Abbiamo di recente svolto un seminario con tutti, chiamando in causa un po' tutti i maggiori studiosi della famiglia, abbiamo fatto il punto sulla storia e soprattutto sulle committenze artistiche della famiglia stessa, che hanno lasciato in eredità tutto il territorio, non solo a Geraci, cominciare anche da Cefalù. Tante delle vostre ricchezze sono proprio, fanno riferimento a questa famiglia. Quindi Geraci è ricca di patrimonio, diciamo, urbanistico, storico, monumentale, ma quello che mi interessa ancora di più sottolineare è proprio l'immenso patrimonio di biodiversità di cui il paese, di cui il territorio dispone. Quindi questo è un valore che probabilmente a cui non si è dato il necessario, diciamo, valore, la necessaria attenzione, perché secondo me rappresenta uno dei punti di forza che sommata agli altri possono veramente creare un notevole valore aggiunto. Ecco, signor Sindaco, sappiamo benissimo che nel periodo invernale si soffre perché indubbiamente le condizioni climatiche non consentono, tra l'altro, quella fluidità nella viabilità che dovrebbe invece agevolare gli spostamenti. Lei, una differenza sostanziale, intanto il numero degli abitanti, quelli che effettivamente abitano a Geraci, e poi come vi preparate, io non dico solamente per la stagione estiva, perché ho avuto modo di leggere che anche durante il periodo dell'anno solare si cercano sempre quegli eventi, quei momenti per così rendere più interessante una visita a Geraci Siculo. Sì, sicuramente le condizioni atmosferiche sono penalizzanti per un comune come Geraci, che è a 1100 metri, quindi sappiamo tutti che Geraci c'è freddo in diversi periodi dell'anno, e le condizioni ambientali non ci aiutano a svolgere attività all'esterno, diciamo. Pertanto proprio credo che una delle cose più importanti che dovremmo cercare di fare è proprio quello di creare dei luoghi dove tante attività si possono fare all'interno. Questo è, credo, una delle cose che abbiamo cercato di fare e abbiamo in questo contesto cercato di mettere a valore alcuni contenitori culturali e monumentali architettonici che avevamo, come il convento dei Cappuccini, che è una struttura importantissima del 1600, che era stata restaurata e che era pressoché inutilizzata. L'abbiamo rimessa a valore, abbiamo destinato in questa struttura l'archivio comunale, l'archivio storico, abbiamo fatto un museo dell'etnoantropologico, stiamo ospitando in questo sempre contenitore alcune collezioni della Fondazione Buttitta e stiamo cercando in tutti i modi di valorizzare questi spazi chiusi proprio per consentirci di svolgere delle attività culturali, ricreative, proprio nei periodi e nei momenti in cui le condizioni atmosferiche non consentono di svolgere queste cose all'aperto. Nel periodo estivo la situazione cambia, sicuramente si aumenta nei numeri, nelle presenze, e qua la domanda viene spontanea: la vostra recettività alberghiera, ecco, come siete attrezzate per poter affrontare quei periodi belli in cui generalmente ci si muove di più? Ecco, lei tocca un punto di un nervo scoperto. Io ho trovato un paese, una realtà in cui l'unico albergo che c'è ha deciso di cambiare la sua destinazione, non è più in attività, ha deciso di svolgere altre, di utilizzare questa magnifica struttura in modo diverso dalla recettività turistica. Abbiamo un bed and breakfast che si è appena costituito, a cui auguriamo grande, siamo sicuri che insomma avrà un'ottima riuscita e un sicuro guadagno nel futuro. La recettività è un problema, infatti siamo stati sicuramente in prima fila in questo disegno di legge che ho sentito, che ne avete parlato anche con i sindaci di Castelbuono, ma anche con quello di Pollina. Ecco, questa cosa dell'albergo diffuso riteniamo che possa essere uno strumento che possa essere utilizzato in maniera specifica per la realtà di Gerace, proprio perché il nostro centro storico, che oramai è stato come un po' tutti i centri storici di questi paesi, di questi piccoli paesi, sono stati abbandonati, hanno insomma un problema di un enorme patrimonio di abitativo sottoutilizzato o non utilizzato, che non può, questo patrimonio abitativo, proprio per la tipologia abitativa tipica di questi contesti urbani, non consente di svolgere attività diverse da quelle tradizionali. Quindi l'albergo diffuso, proprio per la possibilità di derogare su alcuni vincoli e su alcuni standard urbanistici, consentirebbe la messa a valore di questo enorme patrimonio e quindi poter creare quell'ospitalità che è fortemente necessaria. Però su questo abbiamo grandi progetti, noi tentiamo di arrivare a utilizzare l'enorme patrimonio ambientale, compreso la nostra bellissima qualità delle acque, che possa portarci a un utilizzo di questo patrimonio pensando a delle terme diffuse sul territorio. Ecco, signor Sindaco, mi consenta, lei è stato preciso e puntuale, ma io desidero ricordare questi punti di riferimento artistici e patrimoniali in modo analitico. Magari mi dimenticherò di qualcosa e lei ovviamente incrementerà il mio intervento. Il bevaio della Santissima Trinità, il castello dei Ventimiglia di cui abbiamo detto, la chiesa di San Giacomo, la chiesa madre di Santa Maria Maggiore, la chiesa di Santo Stefano, la chiesa del Collegio di Maria, la chiesa di San Giuliano e ancora la chiesa di Santa Maria la Porta, la chiesa di San Bartolo, il convento dei Padri Cappuccini. Quindi oltre la natura che la mettiamo al primo posto, proprio questa natura che sta tutta attorno a questa cittadina che, come diceva lei, è rispetto al mare ad un'altezza di 1100 metri, e quanto dire. Ecco, al di là del fatto artistico e dal patrimonio artistico in se stesso, ci sono quelle manifestazioni, quelle tradizioni che ancora una volta fanno sentire il geracese, abitante del proprio comune, orgoglioso di essere di Geraci Siculo, e mi riferisco a quelle manifestazioni che voi desiderate rievocare. Ce n'è una in modo particolare che viene fatta ogni 7 anni, e quindi io gradirei che lei parlasse appunto di queste manifestazioni che sono i punti forti della, chiamiamola, degli eventi di Geraci Siculo, e poi passeremo anche al mangiare, quel mangiare genuino. Le farò qualche domanda, anzi qua io ne approfitto, c'è la signora, per Pasqua magari mi farò arrivare qualche cosa qua a Cefalù. Ecco, signor sindaco. Grazie, grazie per questa domanda. Lei ha citato correttamente tutte le chiese, una o meglio le chiese che lei ha trovato, che ha ricordato, sono una parte dell'enorme patrimonio ecclesiastico di cui il comune dispone. Le ricordo che almeno le chiese che noi abbiamo a Geraci sono 18, quindi a questo elenco che lei ha fatto vanno aggiunte altre chiese, ma oltre a questo abbiamo avuto a Geraci 5 conventi, di cui uno ancora in grande, di cui uno è delle Benedettine, è un convento di clausura, e colgo l'occasione, qualora le sorelle Benedettine ci dovessero ascoltare, per salutarle, perché sono particolarmente affezionato a queste sorelle, alle sorelle Benedettine, che come hanno fatto questa sono scelta. Sorelle di clausura, io sì, volevo mandare il mio editore proprio a Geraci in clausura, dici non l'accetto. Ne hanno tanto di bisogno le nostre sorelle, perché sono rimaste in poche e hanno tanto da fare. Quindi Geraci c'era un convento degli agostiniani, un convento appunto delle sorelle benedettine, uno delle sorelle collegine, un altro delle sorelle del Sacro Cuore, e poi il convento dei cappuccini. Quindi, come vede, il rapporto dei geragesi con la cristianità, con la religione è molto forte. È molto forte, lo è stato in tutti questi anni e continua ad esserlo. Le tradizioni sono tante, le nostre tradizioni sono tante, e l'attaccamento, ripeto, di queste tradizioni con gli aspetti religiosi sono molto forti e vive. E lo dimostra appunto questa manifestazione che lei ha appena ricordato, che ricade proprio quest'anno, è la Carvaccata dei Visti Amari, che è una manifestazione molto religiosa. Mi perdoni, prego. Posso ricordare la data, se viene confermata? Sì, questa, no, 15, no. 16 e 17 luglio 2011, così stamattina facciamo anche questo servizio di informazione per quanti la ringrazio, portarsi a Geraci. È una manifestazione straordinaria che facciamo ogni 7 anni, che fanno i pastori ogni 7 anni, quindi non la fa l'amministrazione, è una festa loro, che fanno ogni 7 anni e che fanno ogni 7 anni alla terza domenica di luglio, quindi la data è sempre in relazione, diciamo, al calendario. È una festa di ringraziamento. I pastori ogni 7 anni ringraziano il Santissimo Sacramento per quello che hanno raccolto in quei 7 anni. Quindi è una festa fortemente religiosa, fatta con folklore, con grande folklore, con grande passione, ed è straordinaria proprio perché poi questi pastori, e sono tantissimi a Geraci, li voglio ricordare, Geraci è una delle quelle realtà dove l'esercizio pastorale è ancora attivo ed in mano anche ai giovani, quindi abbiamo qualcosa come 47 aziende a Geraci pastorali e zootecniche. E questi pastori a cavallo, dei bellissimi cavalli, portano in un corteo che si sviluppa lungo tutto un percorso abbastanza lungo dei doni al Santissimo Sacramento. Questi doni sono fatti di cacioforme lavorate a mano, ecco, anche in questa particolare manualità che i nostri pastori hanno nella lavorazione della cacioforma, di queste particolari forme, dimostra proprio l'attaccamento al grande patrimonio culturale che ci sta dietro ogni singola, diciamo, oggetto di questo tipo. Quindi invito tutti a partecipare a questa cosa, perché sicuramente sarà tutta una settimana di manifestazioni. Faremo in questa settimana delle mostre, faremo anche dei laboratori sensoriali del formaggio, faremo tante attività anche spettacolari, come metteremo in vetrina un po' tutte le nostre cose più belle. Quindi anche questa scuola di falconeria che abbiamo a Geraci sarà uno spettacolo, verranno tante altre... ci saranno tante altre occasioni per fare trascorrere una settimana ricca di cultura, gastronomia a Geraci. Ecco, è prevista la prima pausa. Linea alla regia. Grazie.